Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. PIL calo record dal 2009, meno 2,5%, produzione industriale giù, crolla l'auto, sconto con la Germania, Wall Street Journal difende Monti e poco fa Monti con Berlusconi, ora lo spread sarebbe a 1200. Londra ha escluso Schwarz per doping, ho sbagliato, la mia carriera è finita. Nigeria, la strage dei cristiani, assalto ad una chiesa, 15 morti. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchesi, dalla redazione di Radio 24. In apertura ai dati PIL, alla produzione industriale. Crollo del PIL, produzione industriale a picco, settore dell'auto, in caduta libera. I segnali dell'economia italiana resi noti oggi dall'Istat sono eloquenti. L'Italia è in recessione. Lo è ufficialmente, senza ombra di dubbio, con un PIL sceso per il quarto trimestre consecutivo, meno 2,5% nel secondo trimestre su base annua, il calo peggiore dal quarto trimestre 2009, mentre nel secondo trimestre del 2012 è calato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. Dati preoccupanti quelli di diffusi dall'Istat, anche perché si aggiungono a quelli della produzione industriale. A giugno è diminuita dell'1,4% rispetto a maggio e dell'8,2% rispetto a giugno 2011. Nella media dei primi sei mesi 2012 il calo è stato del 7% rispetto allo stesso periodo del 2011. Insomma, per come li si voglia guardare, sono dati disastrosi. In particolare crolla il settore dell'auto. A giugno il calo è stato del 22,5% rispetto all'anno precedente, mentre nel semestre la diminuzione tendenziale è del 21, diminuzione rilevante su base annua anche per i beni intermedi di consumo e strumentali, più contenuta la flessione per l'energia. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E ora i mercati finanziari con Deborah Rosciani. Sì, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo una situazione questa mattina positiva. Era partita molto bene la giornata tra i mercati del vecchio continente, poi c'è stato un generale rallentamento e adesso di nuovo tutti proiettati verso l'alto. Milano più 0,86% sul FTSE MIB, Parigi più 0,52%, Francoforte più 0,31%, Londra invece in flessione meno 0,015%, ma siamo abituati a prestazioni abbastanza differenti dalle altre piazze europee da parte della City. Bene anche l'euro sul dollaro, 1,2416. Oggi il mercato manca di spunti fondamentalmente per appunto orientare il comportamento degli investitori. Ci sono alcuni dati macroeconomici che sono stati diffusi in mattinata e poi poco fa abbiamo saputo che il fondo temporaneo di stabilità, le FSF, ha collocato bond a tre mesi per 1.430 milioni di euro ad un tasso di interesse negativo dello 0,021%. È la prima volta che il fondo colloca obbligazioni a tre mesi appunto ad un tasso negativo. A Piazza Affari vengono premiati i titoli che tra l'altro sono già stati protagonisti degli scambi in termini positivi negli ultimi giorni. Tornano gli acquisti sul settore bancario, recupera Unicredit, ieri invece negativa. Lo spread fra BTP e Bund stamattina è ritornato a 465 punti base e questo è il quadro di borsa. In questo momento è tutto. Il premier Mario Monti rilascia un'intervista al Wall Street Journal e dice: se il precedente governo, cioè il precedente governo Berlusconi, fosse ancora in carica, ora lo spread italiano sarebbe a 1200 oppure qualcosa di simile. Sempre al Wall Street Journal, Monti spera di cambiare la mentalità degli italiani, parla di una concertazione troppo forte nel passato e dice che le riforme non bastano, devono mettere delle radici. Intanto in Italia, mentre Monti rilascia queste parole al Wall Street Journal, alla Camera prosegue l'esame della Spending Review. In diretta Vincenzo Miglietta. Buongiorno, il governo supera l'ostacolo rappresentato dalla fiducia numero 33 per l'esecutivo Monti, fiducia chiesta sul testo di razionalizzazione della spesa pubblica così come uscito dalla Commissione Bilancio di Montecitorio e dall'Aula del Senato, 403 i sì, 86 no, 17 astenuti. Per la conversione definitiva in legge manca ancora il voto finale che arriverà alle 15:45. Hanno votato a favore i partiti della maggioranza, Popolo della Libertà, Partito Democratico ed UDC. A settembre saranno necessarie delle correzioni, chiede chiede però Bersani critiche da Italia dei Valori e Lega per il ricorso alla fiducia. Il Carroccio parla di compressione della democrazia, di Pietro di ennesimo bavaglio all'opposizione. Presidio flash mob degli statali di CGIL e UIL questa mattina davanti a Montecitorio. Quanto ai contenuti, i tagli della spending review riguardano tutti i settori dello Stato, vi è poi il riordino delle province, si interviene su sanità e farmacia, aumentano l'IRPEF di 8 regioni e le rette universitarie, le risorse frutto del provvedimento permetteranno di rinviare l'aumento dell'IVA, di intervenire sul caso Esodati, di aiutare i comuni dell'Emilia colpiti dal sisma. E da Roma è tutto. La Camera sarà convocata tra stasera e domani per l'annuncio dell'arrivo a Montecitorio del decreto sull'Ilva. Lo ha stabilito poco fa la conferenza dei capigruppo. Secondo il ministro Corrado Passera bisogna evitare la chiusura dell'Ilva, mentre il presidente dell'Ilva, Bruno Ferranti, assicura che sarà ridotto l'impatto ambientale dello stabilimento di Taranto. Un nuovo boom per la cassa integrazione a luglio, oltre 525.000 lavoratori a zero ore nei primi 7 mesi. Secondo le elaborazioni della CGIL, da inizio anno le ore totali di cassa integrazione sono state del più 8,76% sul 2011. Il ricorso alla cassa mostra un rialzo complessivo che non si registrava da ottobre del 2010, segnala la CGIL. Il Tribunale Nazionale ha immediatamente accolto la richiesta della Procura Antidoping del CONI e ha sospeso con effetto immediato Alex Fazia. Noi ci colleghiamo in diretta con Londra con il nostro inviato Dario Ricci, perché la notizia è del fatto che Fazia è stato trovato positivo, quindi una vicenda possiamo dire vergognosa che mette una ombra su tutto quello che è stato fatto invece dalla nostra compagine in termini di medaglie, è vero così? Sì Daniele, buongiorno a tutti dal bacino di Eton Dorni. Vi riporto subito il commento di una delle rappresentanti più autorevoli della nostra spedizione, Josefa Idem. È lo sport italiano in lutto per quanto accaduto a Schwarzer, per quanto ha fatto Schwarzer. Questo è il commento di Josefa Idem, che tra l'altro ha compiuto l'ennesima grande impresa della sua straordinaria carriera. Pensate, 48 anni, ottava Olimpiade. Pochi istanti fa la Idem si è qualificata per la finale del K1 500 metri donne, 1:52:232, settimo tempo, finale a 8, ma di fatto questo accesso alla finale è già una straordinaria impresa per questa 48enne atleta ed è di fatto anche la risposta a quanto accaduto ieri, in attesa poi che inevitabilmente i tempi della giustizia sportiva vadano a sanzionare Alex Schwarzer, di fatto reo confesso, come ricordavi tu Daniele. Per il momento da Eton Dorney è tutto. Grazie Dario Ricci, sentiamo il commento di Dario Ceccarelli. Fa ancora più male perché ha quella faccia da bravo ragazzo che piace sia alle mamme che alle figlie. Poi quella pubblicità, il latte genuino, i boschi verdi, il Kinder pinguino. Da angelo a demonio, perché ci sentiamo traditi, perché ancora una volta ci hanno sporcato un'illusione, quella della purezza dello sport, che non è puro come ben sappiamo e come ce lo ricordano certi incredibili cronometraggi anche in queste Olimpiadi. Forse la nostra federazione poteva intervenire prima, disinnescare l'ordigno. Andavo forte, ma cercavo qualcosa di più, ammette Alex nella sua imbarazzante confessione. Ora gli sponsor prendono le distanze, tutto già visto. Viene voglia di dire che lo sport è solo una macchina da soldi, senza credibilità. Poi spunta quella ragazza, Jessica Rossi, che c'entra 99 piattelli e dedica la vittoria alla sua gente terremotata. E la vita continua. Dario Ceccarelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Veniamo alla pagina degli esteri. In Siria si va verso la fine del regime mentre proseguono durissimi combattimenti in varie città del paese e non si contano le defezioni tra gli uomini del potere di Assad. Il commento di Alberto Negri. L'atmosfera di calma apparente nel centro di Damasco, che secondo il regime è stata riconquistata e ripulita dagli insorti, sembra quasi irreale se confrontata con le notizie che inclinano la compattezza di un regime dove l'unica immobile certezza sono i ritratti e le scintillanti statue di bronzo di Hafez Assad, il padre del presidente Bashar. La defezione del primo ministro Riad Hijab è un colpo durissimo. Si tratta dell'esponente di più alto rango che ha abbandonato Assad, un rais la cui stessa sorte sembra ormai in bilico, al punto che oggi circolava un Twitter, forse falso, attribuito al ministro degli interni russo, secondo il quale il presidente sarebbe rimasto ucciso con la moglie in un agguato alla Takia. La realtà è che mentre si prepara l'assalto dei lealisti ad Aleppo, le defezioni stanno erodendo il regime, dove è sempre più netta la frattura tra la maggioranza sunnita e la minoranza alawita che detiene il potere. La battaglia di Aleppo deciderà le sorti di questa guerra civile, a meno che la fine di Assad e del regime venga decretata prima a Damasco, nei palazzi del potere. Una nuova strage di cristiani in Nigeria. 15 persone sono state uccise in un attacco contro una chiesa. Tutto si è svolto in pochi minuti. Ieri sera, nello stato centrale di Koji, a Otite, contro la Deeper Life Bible Church, dove i fedeli si erano riuniti per la lettura della Bibbia, che viene fatta il lunedì. Ad assaltare la chiesa sono stati una decina di uomini armati che hanno chiuso le porte dell'edificio religioso per impedire ai fedeli di fuggire. Sentiamo Alessio Fabiano, che è docente di storia africana contemporanea. Un nuovo attacco contro una chiesa cristiana, ma cosa succede esattamente in Nigeria? In Nigeria è da un po' di tempo che si verificano degli attacchi nei confronti delle comunità cristiane. Ogni attacco va preso certamente per delle caratteristiche specifiche. Quest'ultimo accaduto a Koji ha la caratteristica di essere localizzato più a sud rispetto invece a quelli passati, che erano localizzati nei territori settentrionali, dove è forte la presenza di Boko Haram, che viene spesso insomma incolpata per gli attacchi contro la comunità cristiana in Nigeria. Ma perché, ecco, questo accanimento proprio contro i cristiani? Cosa rappresentano? Sì, diciamo che ci sono diverse interpretazioni al riguardo. Io tenderei a riportare tutto a livello locale e quindi a vedere la religione come uno strumento per aumentare il potere di determinati gruppi, in questo caso Boko Haram, sulle popolazioni, quindi aumentare nello stesso tempo i propri spazi di potere politico ed economico a livello locale. Falsi poveri e falsi invalidi. È sempre più serrata la guerra condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l'INPS per scoprire coloro che approfittano dello Stato sociale. Da inizio anno smascherati in 3.400 che hanno truffato lo Stato per circa 60 milioni, in particolare Fiamme Gialle hanno scoperto 418 italiani residenti all'estero che percepivano un assegno di povertà. Sentiamo il tenente colonnello Vittorio Palmese. I frutti sono abbastanza evidenti, se solo si considera che, partendo dal vaglio di oltre 170.000 posizioni di pensioni erogate dall'INPS, sono stati individuati quasi 500 soggetti che percepivano il cosiddetto assegno sociale. Facendo l'incrocio dei dati in possesso dell'INPS con altri dati che noi abbiamo acquisito tramite il Ministero dell'Interno, in particolare i soggetti residenti all'estero, abbiamo verificato appunto questi 500 soggetti che, pur essendo residenti all'estero, continuavano a percepire questo assegno sociale, che quindi non era più spettante nei loro confronti. Noi continuiamo a svolgere all'incirca 14-15.000 controlli all'anno, soprattutto per individuare quelle che noi normalmente chiamiamo i falsi poveri o, come qualche giornalista giustamente ha voluto appellare, i ladri di welfare. Sono le 13 minuti e 24 secondi, vi saluto qui Daniele Biacchesi, era il racconto su quello che è accaduto in Italia e nel mondo su Radio 24, le prossime notizie alle 14.